Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, scusandoci per la mancanza dell'artefatto cosiddetto sigla, ci siamo arrangiati con Berlioz, se non vado errato, e grazie soprattutto a Pierfranco Vitale che ha condotto la regia. L'appuntamento rimane confermato per domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata.